reale, reale. Finisce sempre così quando siamo io e te. Prima dici di no, poi finiamo in hotel. Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere. Dimmi dove sei che ti passo a prendere. Baby, se ti chiedo a cosa stai pensando, non rispondi ma ci prendo sempre. Non ho mai capito nessun altro, ma so leggerti dentro la mente. Adoro l'armonia dei tuoi colori, opera d'arte come Kandinsky. Occhi grandi per cui vado fuori, sembri disegnata da Walt Disney. Siamo come gas e fuoco, noi che ci sentiamo poco. Siamo complici sto gioco, senza richiamarci il giorno dopo. Non puoi capire che effetto fai quando mi connetto e sei online. Mandami una foto e poi se vuoi ci mettiamo a letto ma dei tuoi. Finisce sempre così quando siamo io e te. Ale, ale, ale. Prima dici di no, poi finiamo in hotel. Ale, ale, ale. Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere. Sono con te come con nessun altro, disinibito pure senza l'alcol. Ero in giro e ti stavo pensando, quindi dimmi solo dove e quando. Sai non serve che mi eviti, se mi pensi tanto che mi evochi. Già lo so non serve che telefoni, ti ho sentita pure se non ero lì. Ehi, il tuo corpo è un parco giochi, dove sono stati in pochi. Tu la più alta delle giostre, tutta curva e roller coaster. Per stare buona accendi la TV, ma anche stavolta finirà così. Non arriviamo neanche a metà film, ci aggrovigliamo e poi facciamo il bis. Finisce sempre così quando siamo io e te. Ale, ale, ale. Prima dici di no, poi finiamo in hotel. Ale, ale, ale. Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere. Ale, ale, ale. Dimmi dove sei che ti passo a prendere. Ale, ale, ale. È tardi, rimani. Non dirmi di nuovo domani. Lavoro, ti arrabbi. Per caso in un gioco sbagliato.